Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo dalle borse, meno 1,40% Milano, ma non di sole borse parleremo chiaramente. C'è la tentazione da un lato, tentativo dall'altro del governo di arrivare a una fase 2, mentre ancora l'incontro sulla riforma del mercato del lavoro riserva novità. Dichiarazione del ministro Passera in cui si sostiene di nuovo che l'austerità ha un elemento e un carattere recessivo e parziale smentita perlomeno del Financial Times di quanto dichiarato ieri da Mario Monti, che ha detto insomma la crisi è finita in Europa, la crisi dell'euro. E il Financial Times arriva a sostenere che a questo punto in Italia vi sarà bisogno di una manovra ulteriore, smentito questo dal governo. Poco fa però il Centro Studi Confindustria ha segnalato con dati abbastanza inequivocabili il calo dei prestiti delle banche alle imprese. 20 miliardi in meno sono mancati tra dicembre e gennaio come prestiti alle imprese, 20 miliardi di euro, è una manovra finanziaria, ma di quelle anche abbondanti. E poi segnala il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, le due morse della tenaglia che sta stritolando i piccoli imprenditori. La pubblica amministrazione paga con 180 giorni di ritardo in media, in Germania sono molti di meno, 35, ma con punte si va a 220-240 giorni all'anno, mentre le banche restringono il credito. È chiaro che questo sta creando il soffocamento che stiamo raccontando in questi giorni e in queste settimane. Anche di ciò parleremo. Infine, la vicenda Fondiaria Sai, perché è veramente un germinaio in cui, al di là della gestione chiaramente disastrosa, non tanto di Fondiaria Sai, lo voglio chiarire perché molti ci hanno scritto, Fondiaria Sai come operatività è una compagnia assicurativa che ha dei buoni margini. Il problema è la gestione che si è fatta degli utili, della raccolta, dei premi raccolti da Fondiaria Sai. Allora, un gruppo che è schiacciato da 1,6 miliardi di euro di debiti, continuano a uscire notizie del modo molto così disinvolto con cui i soldi venivano usati, il giro anche di carattere immobiliare con il proprietario Salvatore Ligresti, l'utilizzo di soldi anche per la figlia di Lionel, ma non solo, e anche il ruolo su cui a questo punto ci si interroga dell'ISVAP, l'autorità di vigilanza. Ho capito che il figlio del presidente dell'ISVAP, dell'ex, ha lavorato un anno a Fondiera Sai, ma questo, se volete, non è elegante, non andrebbe fatto, forse andrebbe anche impedito per come norma. Se tu sei presidente dell'autority che vigila sulle assicurazioni, non puoi avere il figlio che lavora per un'assicurazione, non ci sarebbe nessun problema, secondo me sarebbe un'opera di correttezza e di trasparenza. Ma non c'è solo questo, ci sono tutto un insieme anche di affitti dati a vari esponenti del mondo politico, di grande capitalismo relazionale, questo lo si può dire di Ligresti, ma di gestione assurda. Marchionni se ne va, lascia un gruppo nel 2011, l'amministratore delegato, in ginocchio, però prende 10 milioni di euro di buonuscita. Ora, cioè, se uno prende 10 milioni di euro di buonuscita, che è tutto legale, c'era un accordo interno, ma quando lascia un gruppo schiacciato da 1,6 miliardi di debiti, quanto avrebbe preso se l'avesse lasciato inattivo? Non lo so. Glielo regalavano proprio, cioè questa è la vicenda. E poi le consulenze date a Ligresti, i PM sospettano che le consulenze che il gruppo guidato da Marchionni dava al proprietario Ligresti siano in realtà un modo per girare soldi in altro modo. Cioè, è strano che il proprietario diventi consulente della sua azienda e si faccia pagare 40 milioni di euro in 7 anni, molto molto strano, e via così. Ne parleremo alle 18:10. E ancora altri temi che riguardano la cronaca della giornata economico-finanziaria riguardano l'energia. La bolletta elettrica è aumentata, lo sappiamo tutti, aumenterà, il dato era di venerdì scorso. Un grosso peso ce l'hanno gli incentivi alle rinnovabili. So che può sembrare strano, ma insomma, gli incentivi alle rinnovabili stanno un po' drogando il mercato. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. dicevamo della borsa, -1,50% a Milano, pesante il calo sulla Popolare di Milano, -6,40%, il Banco Popolare -6%, Unicredit -4%, Mediobanca -3,30%, Intesa -3,30%, Popolare Emilia Romagna -3%, Ubibanca -2,70%, Generali -2,40%. Come avete capito, oggi è il settore bancario a guidare i ribassi. C'è anche un rapporto di Standard & Poor's che dice la redditività delle banche italiane continuerà a essere bassa nei prossimi anni. Però nel caso della Pop Milano c'è anche la magistratura, indagine giudiziaria sulla fusione tra Banca di Legnano e Cassa di Risparmio di Alessandria. E poi Standard & Poor's ha messo sotto osservazione tutte le banche italiane. La conseguenza è quella che vi ho appena letto. Bene, di nuovo Salvatore Ferragamo +3%, Autogrill +2,70%, Ansaldo +0,80%, come Luxottica, l'Automatica +0,50%, come Enel Green Power. L'euro a quota 1,33, il petrolio è in calo a $104,80 al barile, l'oro è stabile a $1,679 l'oncia, però la benzina, nuovo record, ce l'abbiamo fatta a toccare €1,90. Il distributore IP, dove non me lo dice dove, però il distributore IP €1,908, ma non sono i migliori, perché i migliori si registrano in alcuni casi. La Verde è arrivata a sfiorare €1,940 al litro. Nel frattempo in Spagna la disoccupazione, che è già a livello record nell'Unione Europea, ha toccato il 24,3%, e sarà questo il dato su cui dovrebbe assestarsi la disoccupazione non giovanile, di tutti, quella giovanile è ancora più alta, 24,12%. Sostanzialmente il numero dei disoccupati in Spagna toccherà quest'anno i 5.600.000, 630.000 persone in più rispetto all'anno scorso. Sì, parleremo anche dei revisori dei conti, delle società di certificazione, dei sindaci, cioè, insomma, questa cosa di Fondiaria, come nel caso di San Raffaele, ma Fondiaria è ancora più grave perché era quotata in borsa, c'erano due autorità che vigilavano, cioè, sia l'ISVAP che la Consob, pure l'Icardia. Ah, ma Icardia, l'allora presidente della Consob, aveva il figlio che abitava nel palazzo, non so se abiti ancora, nel palazzo di Ligresti a Roma, coincidenza, coincidenza. Torniamo alla finanza, lo spread tra Italia e Germania, e quindi la differenza tra quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto costa la Germania, è stabile a 330 punti base, che comunque è un livello più alto dei 270-280 di due settimane fa. Saltano le liste selettive nel frattempo di contribuenti, in particolare commercianti colti a non emettere scontrini. La blacklist cosiddetta, o ricevute, era una lista che, per cui, che veniva stilata in chi veniva inserito nella lista chi non emetteva scontrino o ricevute, e su questa lista poi l'agenzia delle entrate poteva pianificare accertamenti. Salta la blacklist, chissà perché. Cioè, voglio dire, è un reato non emettere uno scontrino o una ricevuta, è fare la blacklist. Se il commerciante è onesto e dà lo scontrino come molti sono, o fa la ricevuta, non ha niente da temere. Io non capisco perché, dopo i dati che abbiamo appena visto, in cui il 96% dei contributi e delle tasse sono pagate da pensionati e lavoratori dipendenti, e dove un imprenditore guadagna meno del suo dipendente, no? Piaccia o non piaccia, vedo già alcuni messaggi. Ho capito che anche le partite IVA sono tartassate dalle tasse, quelle che le pagano onestamente ci mancherebbe. Però il dato è che più del 90% del fisco arriva da pensionati e dipendenti. E adesso aspetto i buontemponi che hanno tempo libero su Facebook di contestare questa cosa. Andiamo avanti. Mastro Pasqua è tornato sugli esodati. Non posso dare numeri, ha detto Mastro Pasqua, presidente dell'INPS, che guadagna, cioè lui, i suoi due direttori generali e i quattro membri, in tutto siamo a 2.200.000 euro di stipendio all'anno per i vertici dell'INPS, E però Mastrapasqua continua a non poter dare i numeri sui cosiddetti esodati. Non ne ho mai dati in precedenza e non posso darne ora. Secondo i giornali sarebbero 350.000, molto superiori ai 60.000 previsti dal governo. Ora, il tema è delicatissimo perché il governo stimava gli esodati sono quelli che si trovano, no, tra coloro che sono sospesi, per dirla con Dante, perché hanno accettato di uscire dall'azienda con lo scivolo, col prepensionamento di fatto, convinti che le pensioni non sarebbero state toccate. Poi invece l'età pensionabile sta allungata, alzata, e loro si ritrovano in un buco. Allora, secondo il governo erano 65.000, secondo i giornali sarebbero 350.000. Mastrapasqua dice: non posso dare i numeri. Ma se il governo li ha dati, com'è che l'INPS non li può dare? Continuiamo così, facciamoci del male. E poi Mastrapasqua ha ricordato oggi che il Ministero del Lavoro ha insediato il tavolo tecnico sul tema esodati e che le stime saranno date entro una settimana. Per carità, con calma, con calma, con calma. La riforma l'abbiamo già fatta delle pensioni, però con calma, eh. E anche il ministro Fornero dice: sembra facile trovare i numeri. Quelli che ironizzano, quindi anche sottoscritto, sul fatto che non si trovano i numeri in tempi brevi, vorrei che venissero e vedessero le difficoltà. Ho capito, ministro. Ministro Fornero, lei avrà anche ragione, ma prima di fare la riforma delle pensioni, abbia pazienza, no? Dovevate pensarci prima, perché non è un dettaglio se ci sono 60.000 italiani o 350.000 italiani che si ritrovano senza pensione da un lato e senza lavoro dall'altro, no? E viene a fare la professoressa da noi. Ministro! Va bene, nel frattempo il ministro Fornero ha detto che spera che il DDL sia pronto per domani mattina. Il segretario del PD Bersani ha detto: finora non ho novità, non ci sono novità concrete. L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha detto che la cura dell'Unione Europea per l'Italia ha portato al disastro in Grecia ed è quello che sta capitando anche in Spagna. Devo dire che su questo Berlusconi secondo me ha ragione, cioè se qua pensiamo di uscire dalla crisi solo con la cura da cavallo tedesca, secondo me ammazziamo il cavallo. Va fatta anche la cura da cavallo, perché il governo Berlusconi dovrebbe anche ricordare dove ha portato deficit e pareggio di bilancio e soprattutto dove com'è andata sostanzialmente l'avanzo primario, cioè quello che si ottiene tra entrate e uscite prima di pagare gli interessi sul debito. E poi il presidente Berlusconi dice: attenzione, la situazione è drammatica per la stangata sui consumi. Ecco, anche qui faccio notare che Silvio Berlusconi dice: la situazione è drammatica, sono stato a cena con gli imprenditori e nessuno di loro ha dati positivi, tante aziende pensano di delocalizzare, i beni di lusso sono cancellati, le famiglie dovranno fare i conti con IMU, IRPEF, costo benzina e quando arriverà anche l'aumento dell'IVA al 23%. Al di là del fatto che il suo partito sostiene questo governo, ma questo è lo stesso Berlusconi che a ottobre, fine ottobre, inizio novembre, diceva, tornato da Bruxelles, era ancora Presidente del Consiglio, una cosa completamente diversa. Possiamo risentirla? Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante. In tutte le occasioni questo si dimostra, i consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei ponti sono assolutamente iperprenotati. Ecco, non credo che voi vi accorgiate andando a vivere in Italia che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi. Non mi sembra. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. No, questo per dire che fa bene l'ex presidente del Consiglio ricordare che la situazione è drammatica. Tre mesi fa diceva appunto queste parole: i ristoranti pieni, gli alberghi prenotati per il ponte. Ora non è che la crisi, va ben tutto, si è creata in tre mesi, onorevole Berlusconi. C'era anche quando c'era lei. E quindi forse diciamo, non conveniva dirlo, e comunque il suo partito appoggia il governo. Notizie della crisi degli altri. San Marino, sarà introdotto il reato di evasione fiscale. Noi leviamo la blacklist sui commercianti che non danno lo scontrino. San Marino introduce la blacklist sul reato di evasione fiscale, perché non esisteva il reato di evasione fiscale nello Stato di San Marino. Quindi ci sarà il reato di dichiarazione fraudolenta e omessa dichiarazione. Lo ha confermato il ministro delle finanze sammarinese Pasquale Valentini. E il progetto di legge sarà da domani all'esame della Commissione Finanze del Consiglio Grande e Generale, ossia il Parlamento di San Marino. E quindi anche San Marino si adegua, scopre che anche lì ci sono evasori fiscali. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Capirà la crisi. Allora, il parroco, la diocesi è quella di Bolzano. Il parroco, non riesco a trovare il nome, però peccato. Un parroco d'ora in avanti nella diocesi di Bolzano dovrà rifiutare ogni versamento in contanti. Dovrà dire: mi faccio un bonifico. Questo anche a un fedele che gli consegnerà una busta piena di banconote per la ristrutturazione del campanile. È successo a Bolzano. Le offerte alla parrocchia che superano l'importo di 999 euro, come prevede il governo, devono essere versate sul conto bancario della parrocchia. Si legge in una circolare pubblicata sul Folium Diocesanum. In caso di non osservanza di queste norme, la legge prevede sanzioni dall'1 fino al 40% dell'importo e comunque di almeno 3.000 euro. E poi gli esodati della casta, dopo le manette il vitalizio. Insomma, qui mentre il ministro Fornero ci dice che non è facile scoprire il numero degli esodati, sto ancora arrabbiato con questa frase, perché cioè, poi se ce lo dice sempre trattandoci da studenti, non è che possa salire il suo grado di consenso. Sembra facile trovare i numeri. Quelli che ironizzano sul fatto che non si trovino i numeri dovrebbero venire qua a vedere le difficoltà. Ma la riforma l'ha fatta lei, non l'ho mica fatta io. Non poteva trovarli prima della riforma i numeri? Non potevate pensarci che c'era qualche decina di migliaia di italiani che si trovava tra la pensione che adesso non ha più e l'aver lasciato il posto di lavoro? E cioè, colpa dei giornalisti che dicono 350.000, ma mi faccia un favore, col massimo rispetto, ministro, e trovate i numeri e dateceli rapidamente, perché qua non si può lavorare con sto balletto. Dicevo, gli esodati della casta, personaggi che dopo essere stati travolti da scandali giudiziari hanno dovuto rinunciare alle loro cariche, ma non ai soldi del vitalizio, licenziati con buona uscita. Cosimo Mele, ma ve lo ricordate? Quello che fece un collasso usando cocaina, con Sandro Frisullo. Il caso Mele, praticamente fu coinvolto in uno scandalo di droga, finì in ospedale una donna che dopo un festino in hotel con lui. Quando Mele raggiunge 55 anni di età, ecco che arriva alla Regione Puglia la richiesta di un vitalizio anticipato. Lui è stato consigliere comunale alla Regione Puglia dal 2000 al 2005, è noto alle cronache perché arrestato per tangenti nel 99, partito suo è l'UDC. Richiesta accolta dalla Regione Puglia e Mele ha iniziato a ricevere ogni mese un assegno di 3.500 euro. Sandro Frisullo, anche lì in Puglia, 15 anni di presenze, finisce in manetta per essersi fatto corrompere a Tarantini con soldi e donne, però raggiunge i 57 anni e fa anche lui richiesta per il vitalizio anticipato, 10.700 euro al mese. 10.700 euro al mese per Sandro Frisullo. The Oscar goes to Sandro Frisullo. Ma cos'è questa crisi? Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Capirà la crisi. Ultima notizia, poi andiamo al primo tema. Più delle cifre in questo caso colpisce la fantasia, lo sforzo di ingegno con cui si riesce a giustificare lo spreco di denaro pubblico. Qualcuno mi chiede se ho litigato con mia moglie. No, non ho litigato con nessuno. Mi fa arrabbiare la Fornero, il ministro Fornero, mi fanno arrabbiare Frisullo e Mele. Non è che solo se litigo mi arrabbio. Allora, dicevo, la fantasia nello spreco di denaro pubblico. lavori che non sembrano. Insomma, guardate il mitico Nord-Est, enti locali del Nord-Est. È vero che gli incarichi esterni sono calati del 20%, questo va detto, però il Gazzettino, il giornale del Nord-Est, ha scoperto le cose bellissime. Friuli Venezia Giulia, 26.370 euro per affidare contratti di collaborazione a persone fisiche qualificate per verificare se nevica! Qualificate per verificare se nevica, cioè 26.000 euro per affidare contratti di collaborazione che devono verificare se nevica. Come si fa a verificare se nevica? Applauso nostro va ai verificatori della neve, si va fuori, si guarda se nevica o anche dalla finestra. La provincia di Treviso, che conta di spendere 21.000 euro per contare le anguille dei fondali dei fiumi della Marca trevigiana. E poi 1.200 euro a un esperto manifatturiero per controllare se i cappellini da distribuire agli addetti alla protezione civile vanno bene. Allora, come si fa a controllare le anguille dei fondali dei fiumi della Marca? Penso ci si chieda anche assistenza a quelli che controllano la neve, e poi controlla i cappellini da distribuire agli addetti alla protezione civile. Come si fa? Si mette il cappellino sulla testa dell'addetto alla protezione civile e si controlla se stringe. Un applauso anche alla provincia di Treviso. Finisco con due chicche e poi andiamo al primo tema. Il Parco del Sile, comune di Venezia, quindi il sito web del Parco del Veneto costa, anzi il Comune di Venezia ha stanziato 1.000 euro, ma nel Trevigiano 12.000 euro, vabbò. Però il Comune di Venezia ha stanziato 1.000 euro per aggiornare il blog della consulta delle cittadine per i tempi, la qualità della vita e la valorizzazione della differenza. Non ho capito una mazza. Orsoni, ci chiami, ci spieghi cosa servono questi 1.000 euro e 2.000 euro per realizzare filmati e pubblicarli su YouTube e social network vari, non si capisce di quale genere. E poi Venezia ha speso, lì un po' tirchi, 200 euro per una lezione di dieta vegetariana. A Padova invece 3.000 euro e spiccioli stanziati per studiare design e grafica delle targhette da porre in una prestigiosa biblioteca da poco ristrutturata. E tra l'altro l'Italia è prodiga di attenzioni per le biblioteche del deserto della Mauritania. C'è un progetto del Ministero degli Esteri in cui andiamo a salvaguardare le biblioteche del deserto della Mauritania. E finisco con l'Oscar vero e proprio. L'Oscar oggi va al comune di Gran Torto, provincia di Padova, 400 euro per un laboratorio di spaventapasseri. C'è chi mi dice che sono, diciamo, un testicolo perché accusi Veneti pur essendo Veneto. Bellissima questa, complimenti anche a lei, le manderei un bel Marco da Vicenza, le manderei un bel applauso, ma siamo oltre. No, è perché sta sulle scatole probabilmente ad alcuni veneti o friulani scoprire che non ruba solo Roma, ma ruba, o meglio ruba, no, spreca molto anche Venezia, Padova, Treviso, la provincia, il comune. E lì il mantra del federalismo: si ruba solo a Roma, non si ruba mai in provincia. Comunque io l'Oscar l'ho dato al laboratorio di spaventapasseri del comune di Gran Torto di Padova, ma insomma era ex aequo con gli incaricati della provincia di della regione Friuli Venezia Giulia, gli incaricati di controllare e verificare se nevica. Professor Onado, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. L'ho fatta arrabbiare? No. Indignare, la parola esatta. No, nel senso che l'incaricato di controllare se nevica, io trovo più un lavoro usurante quello che deve andare sui fondali del fiumi della Marca a controllare le anguille. Perché anche gli spaventapasseri, insomma. Beh, insomma, l'anguilla per definizione non è che si va a prendere proprio così, per cui arriveremo anche a altre regioni. La stai girando a tarallucci e vino? No, mica tanto, sapete, perché quando ci sono 100 miliardi di spesa pubblica che il sottosegretario Giarda ha detto bisogna porre a due diligence. Insomma, comunque, Financial Times di oggi: in Italia si profilano nuove misure di austerità. Il governo smentisce, il Presidente del Consiglio smentisce anche lui, dice non servono manovre correttive. Lei però oggi, in prima pagina, su Sole 24 Ore, ha detto attenzione, qua serve un'iniziativa anche politica nei confronti delle banche. Professor Onado. Naturalmente è riferito a un'altra questione rispetto a quella che solleva l'articolo del Financial Times. L'articolo del Financial Times insiste sulla cura di rigore fiscale che rischia di trascinare l'Italia, ma anche l'Europa in una crisi depressiva che ormai non è azzardato paragonare a quella degli anni 30. Manca ancora uno scatto di misure per la crescita e lo sviluppo. Ecco, il punto che sollevavo sul sole di oggi era appunto questo, almeno con riferimento al sistema bancario, trovare qualche cosa che possa servire davvero a far arrivare il credito alle imprese, perché in questo momento la situazione è drammatica e si stanno curando la crisi con terapie del tutto sintomatiche, cioè inondando le banche di liquidità a tasso bassissimo. Questo secondo me non risolve i problemi nel medio termine. E lei oggi parlava addirittura nel suo intervento su Sole 24 Ore di deposit crunch, non solo credito, non restrizione del credito, ma restrizione del deposito. Prego. L'aritmetica evidentemente non torna. Il motivo fondamentale è che le banche hanno utilizzato almeno la prima tranche che hanno avuto alla fine di novembre, chiaramente per migliorare la loro posizione passiva sostituendo obbligazioni molto più onerose dei depositi e più onerose del credito ottenuto dalla BCE. Prego, professore. No, perché appunto i conti non tornano, e tra l'altro lei citava nell'articolo oggi su Sole 24 Ore restrizione da deposito che sembrerebbe poi far presagire difficoltà ulteriori dal punto di vista bancario. Sì, perché il problema appunto, se è strutturale, non può essere risolto semplicemente con il credito della BCE, che per definizione dovrà essere restituito, e già ha creato qualche critica anche abbastanza aspra nei confronti di Mario Draghi. Ecco, su questo lei cita due possibili di raccolta delle banche, deposit crunch, è così, per usare un termine un po' impresso, insomma, il concetto è questo, insomma, i depositi sono il volume dei conti correnti, certo. Era alla fine del 2011 era inferiore di inizio d'anno, ma è successo. Ecco, lei, per concludere, professor Onado, dice però attenzione, in questo momento le banche hanno di fronte due possibilità, no? O le banche riducono progressivamente il tasso di crescita degli impieghi per adeguarlo alle loro capacità di raccolta, cioè continuano a prestare, traduco io, sempre di meno, se ho ben capito. Oppure ritornano al finanziamento sul mercato obbligazionario a costi più alti che nel passato, cioè tornano a finanziarsi sul mercato obbligazionario, emettono obbligazioni. Però se emettono obbligazioni a costi più alti non è che poi la scaricano di fatto nel prestito alle imprese e alle famiglie? Ora scaricano le prestiti alle imprese o riducono i profitti o qualsiasi combinazione tra le due cose. E comunque non va bene. Nell'attuale condizione. Ecco, se mi dà anche un elemento di speranza, visto che sono partito con una arrabbiatura nei confronti del ministro Fornero, poi delle spese del nord-est, almeno mi rilasso e vado verso una borsa esaltante che ha chiuso con un 2% di calo. Vabbè. Io credo quello che dico nell'articolo è che da tutte le crisi finanziarie si esce con delle soluzioni forti e veramente innovative. Di queste, non solo in Italia, ma neanche in Europa, finora non si parla abbastanza e bisogna cominciare a pensare seriamente a meccanismi di finanziamento per l'attività produttiva, cioè per la crescita e lo sviluppo, perché tornando al punto da cui siamo partiti, soltanto di rigore fiscale non si risolve. Mi faccia fare la battuta, professore: dal rigore fiscale al rigor mortis il passo è breve, no? Mortis o montis? Rigor Montis, non male, ma è un professor Nado in versione. Beh, Rigor Montis mi piace sicuramente di più. Non so se sia nuova, ma le autorizzo a usare il copyright. Mi dica una cosa, però, professore, veramente per salutarci: l'idea che ci debba essere una moral suasion, cioè una minaccia, ecco, perché più che da parte anche dell'ex banchiere, attualmente ministro Passera, e dell'ex rettore della Bocconi e attuale presidente del Consiglio Mario Monti, nei confronti del mondo bancario, cioè trovare una soluzione che riguardi sia anche i crediti dello Stato verso le imprese, ma anche la concessione di credito, la convince oppure no? Perché lei cita Beneduce nel suo articolo oggi. Beneduce, voglio dire, è quello a cui Mussolini mise in mano, Beneduce, poi il suo era cognato o genero, non mi ricordo più, ma Mattioli mise in mano l'IRI, la ricostruzione del paese dopo il 29, no? Esattamente, ma furono grandi soluzioni che hanno consentito investimenti negli anni, consorzio di credito per le opere pubbliche e l'ICP, furono due grandi innovazioni che sono stati oggetti anche di uno studio molto accurato da parte di Marcello De Cecco nell'ambito della storia finanziaria promossa dalla Banca d'Italia. Insomma, sono cito nell'articolo anche un rapporto del Fondo Monetario Internazionale che dice che per finanziare l'edilizia bisogna tornare ai fondamentali del passato. Insomma, quindi, cioè, ma lei sarebbe per una nuova IRI? No, perché qua, insomma, se parliamo di Beneduce e di Mattioli, parliamo di IRI e delle banche di interesse nazionale, delle BIN. No, nuove IRI no, ma certo di nuove soluzioni finanziarie, sì. Una banca dello Stato? Un meccanismo che consenta il finanziamento delle imprese e quindi anche, che so, delle forme di obbligazioni con qualche forma di garanzia statale. Tornando alla sua questione della moral suasion, ricordo che una delle prime misure del governo Monti è stata quella di dare la garanzia sulle passività a medio termine, le nuove passività a medio termine delle banche, come del resto aveva chiesto il Consiglio europeo a fine di ottobre, se non ricordo male. Ecco, queste, diciamo, la moral suasion è semplicemente, come posso dire, la contropartita a quella la garanzia che è stata concessa, che ha rappresentato un sostegno pubblico. Sì, comunque, per chiudere veramente, se dicessi che il governo dovrebbe fare una banca, tra virgolette, una banca, che era un po' il progetto del ministro Tremonti, dell'allora ministro Tremonti, una banca di Stato, una banca nazionale. Una nuova banca non serve, nuovi meccanismi finanziari sì. E quindi ripescare lo spirito. Sento molta aria di Keynes, Beneduce, IRI. Non lei, dappertutto, perché evidentemente tranne i tedeschi, che come sapete hanno tantissime qualità, ma non è che proprio siano le persone più flessibili del mondo, tranne i tedeschi mi sembra che tutti, l'ex premier Berlusconi oggi, il ministro Passera in questi giorni, tutti stanno dicendo attenzione, di sola austerità, con la sola austerità non ne usciamo. E i greci a 400 euro di stipendio per i netturbini al mese sono lì a dimostrare che si sprofonda, anche i portoghesi e fra un po' anche gli spagnoli. Va bene, no? Perché l'importante è capirsi. Grazie al professor Marco Nado. Vorrei toccare il tema delle bollette elettriche, non tanto per la notizia del fine settimana, luce e gas più care del primo aprile, che è una bella pesce d'aprile, dell'1,8%, quindi 22 euro in più a famiglia per il gas e 27 euro in più a famiglia per l'energia elettrica, ma il ruolo delle rinnovabili, e trago spunto da molti messaggi che sono arrivati e dicono attenzione, gli incentivi al fotovoltaico sono il miglior volano per lo sviluppo, l'occupazione, la ricerca e il calo delle bollette, nonostante il ministro Passera e il primo ministro Monti. Fatemene voi informazioni corrette. A noi risultava che in realtà proprio gli incentivi rinnovabili avessero contribuito a questi rincari così forti, allora abbiamo deciso di chiedere a chi ne sa sicuramente più di noi. E Ed è Maurizio Melis, conduttore di Smart Cities, ex Mr. Kilowatt. Buonasera, illuminaci. Buonasera. Di immenso, Maurizio. E una nota però, stanno scrivendo molti friulani da Cividale, da Sacile, dicendoci che non c'è neve in Friuli e quindi svolgono gratuitamente il servizio per cui la Regione Friuli ha speso 26.000 euro, devo ribeccarla quella perché ce l'ho proprio qua tutto il giorno, 26.000 euro per pagare, eccola qua, per affidare contratti di collaborazione a persone fisiche e non persone giuridiche qualificate per verificare se nevica. Però lo stanno facendo gratis i nostri ascoltatori che confermano che in Friuli non sta nevicando. Maurizio, quanto pesano le rinnovabili? Allora, pesano, intanto quella email parlava di fotovoltaico e non di rinnovabili. Se ci fosse stato scritto rinnovabili avrei potuto anche essere d'accordo, soprattutto aggiungendo efficienza energetica. Non sono d'accordo se si dice che il fotovoltaico è, come dire, tutta questa somma di bene, perché il fotovoltaico oggi è, lo possiamo definire, credo, l'assopigliatutto del mondo delle rinnovabili. Sostanzialmente, con gli incentivi ultra generosi che sono stati dati, il triplo di quelli tedeschi, ha esaurito la nostra capacità di mettere risorse nel mondo della green economy, quindi rinnovabile ed efficienza. Vi dico solo un numero: attualmente il fotovoltaico costa in incentivi circa 5 miliardi e mezzo all'anno, destinati a diventare 7. Per l'efficienza energetica in tutta la nostra storia abbiamo messo finora 500 milioni. Efficienza energetica che invece ci aiuterebbe a raggiungere molto più rapidamente anche gli obiettivi europei e quant'altro. Visto che il ministro Catania, ministro della politica agricola, ha detto oggi ci sarà un cambio di rotta sugli incentivi alle rinnovabili, siamo usciti da un periodo di non meditata gestione, cioè troppi soldi. Soprattutto spesi male. Il fotovoltaico ci costa 5 miliardi e mezzo di incentivi e tutto questo lo paghiamo noi in bolletta perché finisce per nel conto anni. Per 20 anni, che è una condanna, finisce nel conto energia. E poi... ci sono anche altre voci. Prego. Che sono anche peggio. Dunque, proviamo ad analizzare questi aumenti dell'energia elettrica che ci sono stati dichiarati. Il venerdì scorso il 5,8% in più sulla bolletta elettrica. Di questo 5,8% il 40% sono costi indiretti, di cui quasi non si parla, delle rinnovabili, cioè costi legati al fatto che queste fonti, in particolare fotovoltaico ed eolico, soprattutto fotovoltaico, oscillano, producono o non producono, e quindi bisogna fare delle operazioni di rete, pagare delle centrali per rimanere pronte a entrare in funzione quando arriva la nuvoletta, eccetera, eccetera. Questa roba già è il 40% di questo aumento del 5,8%. A maggio arrivano i costi diretti, questi 5 miliardi e mezzo di cui ti parlavo sono solo costi diretti, cioè incentivi. Poi ci sono dei costi indiretti che ormai attualmente oscillano intorno, per esempio pagare delle centrali a gas perché rimangano pronte ad accendersi quando arriva la nuvola sul campo fotovoltaico, oppure opere di rete. E quindi a che costi siamo compresi? Allora, oggi se sommiamo tutto questo e vediamo quanto impatta sulla bolletta di una famiglia, è circa il 20% e non il 13% di cui si parla, ecco, ed è destinato ad aumentare. Ecco, vorrei chiudere però su una cosa onde non essere frainteso. Noi siamo da sempre per le fonti rinnovabili, sappiamo benissimo che non ha senso dire che sostituiranno le altre fonti, purtroppo, però è importante che si arrivi al 20-20-20, diciamo. Questo sicuramente. Perché tu dici che però ridurre gli incentivi alle rinnovabili è l'unico modo in questo momento per salvare le rinnovabili? Io credo che sia vadano ridotte al fotovoltaico, perché il fotovoltaico ha occupato tutto, e quindi se noi riusciamo a togliere qualcosa, piuttosto anche a togliere qualcosa, io lo dico chiaramente. Ma non è un bene che gli italiani, gli agricoltori, chi ha un campo, gli alberghi, si mettono i pannelli sul basta tetto. Andare a guardare sul sito del GSE e si scoprirà che la maggior parte degli impianti non sono quei impianti finiti sui tetti degli italiani, sui capannoni, eccetera, eccetera. Sono impianti a terra che sono stati acquistati da fondi di investimento stranieri. Quest'anno il 75% degli acquisti di grandi impianti fotovoltaici è avvenuta da parte di fondi di investimento stranieri. Sì, tra l'altro ci sono state anche infiltrazioni della camorra, della mafia. Per capirsi, se gli togliamo qualcosa, parliamoci chiaro, li togliamo dai fondi di investimento stranieri. Ma non possiamo toglierli a chi, solo a chi, adesso mi rendo conto che sia una cosa, cioè salvaguardare l'investimento del privato, o dell'albergo, o del ristorante, o del... o di quello che vuoi tu, cioè di quello che dice io ho un tetto e ho un consumo di energia alta perché appunto gestisco un'attività, almeno riesco a fare il 10, 15, 20% così, e devi dargli un incentivo e magari evitare che vi sia la speculazione per cui eliminano il campo che magari era girasole, a mais o a vite, ci mettono il fotovoltaico sopra e si beccano pure i soldi di fondi di investimento e noi li paghiamo in bolletta? Sì, il problema è esattamente questo. Bisognava evitare, per esempio, di andare sui campi e rimanere sui tetti col fotovoltaico. Sarebbe stata, come dire, un'ottima cosa, per esempio, già quella. Si finanzia solo il fotovoltaico, i pannelli che sono sui tetti, non sui campi. Esatto, se uno, questo è quello che si sta per fare realisticamente. Purtroppo il danno è fatto, per questo io temo che potrebbe essere anche necessario guardare un pochettino al passato, perché il problema è che siccome nel momento in cui diciamo una fonte rinnovabile è ampiamente favorita per ragioni puramente di incentivazione sulle altre, il criterio fondamentale dell'evoluzione di questo sistema basato sulle rinnovabili e l'efficienza, che è uso quello che c'è in quel luogo lì, se c'è il vento in mezzo alle foreste, ho capito il tuo ragionamento, vai a falsificare il mercato. Colpisco gli altri. Ci sono aziende che facevano pannelli termici, quelli per fare l'acqua calda in Italia, che c'erano e hanno dovuto chiudere a causa degli incentivi eccessivi al fotovoltaico. Perché tutti gli incentivi sono sui pannelli solari, laddove invece dovresti pensare a vento, a pannelli termici e a quant'altro. Devo dire che c'è un'altra cosa che poi mi dispiace in tutto questo, proprio per tornare ai temi elettivi del programma, che la maggior parte delle aziende che producono pannelli fotovoltaici stanno in Germania, cioè almeno se questi soldi che ho in bolletta... L'85% di quello che abbiamo è finito all'estero. E la borsa? -2%, devo dire che sono peggiorate tutte le borse, non solo Milano, nel finale -1,60 Parigi, -1% Francoforte, -0,60 Londra, mezzo punto l'America. Chiaramente Milano è la peggiore perché male vanno oggi le banche. Standard & Poor's ha acceso i suoi riflettori, diciamo così, sul mondo bancario, perplessità sulla Popolare di Milano, ma anche sul Banco Popolare, su alcune banche in generale. E il Banco Popolare perde il 6,75%. Standard & Poor's ha detto che per le banche italiane si prevede un periodo di bassa redditività, e quindi il Popolare perde il 6,75%, ma la Pop Milano il 6,60%, Unicredit -5%, Intesa -4,70%, Popolare Emilia Romagna -3,70%, Mediobanca -3,5%, UBI Banca -3,20%, Generali -3%. Ciao Condina, Radio Corri Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Le borse in realtà vanno male anche per le preoccupazioni sulla Spagna, sulla Grecia, per le indiscrezioni del Financial Times, poi smentite, di una possibile manovra bis in Italia. Però le banche oggi non l'hanno fatta da padrone. Sì, c'è un mix di fattori che oggi ha mandato a picco le borse, in particolare Milano, dove come sappiamo i titoli bancari hanno un peso maggiore rispetto agli altri indici europei. Sì, è vero, oggi i bancari a Milano in profondo rosso. Nel suo report Standard & Poor's evidenzia due potenziali fattori che in futuro potranno penalizzare gli istituti del nostro paese, che sono la scarsa redditività, cosa che si è già vista quest'anno, e poi questo interessa soprattutto gli azionisti, i piccoli azionisti, remunerazioni, cioè dividendi che andranno sempre più incalando, e quest'anno ricordiamo, abbiamo visto come i nostri istituti di credito hanno mandato abbastanza a dieta i propri azionisti da questo punto di vista. Tra l'altro sulla Pop Milano però c'è dell'altro, nel senso che ci sono anche le indagini giudiziarie sulle fusioni tra Banca di Legnano e Cassa di Risparmio di Alessandria. Sì, no? Assolutamente, c'è questo, e poi anche la stessa S&P che, per quanto riguarda la Popolare di Milano, ha messo il titolo sotto osservazione per un possibile declassamento. Questo più l'azione della magistratura, più il fatto che insomma la banca, l'abbiamo visto dal bilancio 2011, insomma così brillante non è, il titolo ha perso il 6-6%. Ancora tra i titoli segnaliamo in positivo Salvatore Ferragamo, +2,70%, conferma il buon andamento del lusso soprattutto in Cina, ma non solo. Autogrill +2,36%. Qui ci sono voci di un nuovo spin-off, di una separazione, diciamo. Sì, un po' come c'è una società aeroportuale che ha già avviato un'operazione di questo genere, e cioè ADR sotto la regia dell'azionista di controllo Gemina. Per quanto riguarda Autogrill, per adesso sono solo indiscrezioni che tuttavia oggi hanno fatto insomma breccia sul mercato. Si tratterebbe in poche parole di separare le attività di food and beverage e poi magari di cedere una quota di minoranza sul mercato, cosa che porterebbe sia un alleggerimento del debito, sia magari a sicuramente un incasso. Ancora Ferragamo, continuiamo, gli abbiamo detto Mediaset. Allora, ha ceduto la sua quota di debito in Endemol pari al 6% del capitale, ha incassato poco meno di 70 milioni, no? Il titolo andava bene oggi e ha chiuso, lo trovassi, ha chiuso in meno 0,40% però. Sì, guadagnava, è arrivato a guadagnare anche il 3% questa mattina, poi come dicevamo prima nel finale le borse si sono avvitate, hanno perso quasi un punto percentuale negli ultimi minuti di contrattazione. Endemol è uscita, Mediaset è uscita dal capitale di Endemol vendendo la sua quota di debito. Cosa significa? Fondamentalmente il debito era tale che i creditori hanno convertito i propri crediti in equity, in azioni, quindi è come se avesse venduto la propria quota di azioni, una quota che era pari ormai al 6%. Ancora tra i titoli Luxottica più 0,70, Ansaldo STS più 0,67%, Finmeccanica oggi è rimasta più al palo, meno 0,75%, anche se da parecchi analisti c'è maggiore fiducia nel bilancio. Sì, anche perché peggio di quest'anno del 2011 era duro, difficilmente si potrà fare. Poi anche Ansaldo ha preso due commesse, insomma Ansaldo è partecipata da Finmeccanica, quindi un leggero ottimismo sul settore, anche se guardando le quotazioni insomma restiamo veramente quasi sui minimi storici. Buona notizia per Fiat, ma dall'America: il dato di ieri era terribile in Italia, meno 10 punti percentuali di più di calo nelle matricolazioni rispetto alla media, meno 26% la media, meno 36 Fiat. In America invece boom di vendite di Chrysler più 642%. E le vendite in America sono salite del 34% a marzo. Fiat come marchio ha venduto 3.712 macchine contro le 580 Fiat vendute a marzo 2011 in tutta l'America. Invece Chrysler ha fatto a marzo più 34%, il miglior mese dal 2008 e il 24esimo mese consecutivo di aumento delle vendite, con una crescita di almeno il 20%, in Canada più 8%, la 500 va bene in Canada più 190%, ne hanno vendute 1200, a dimostrazione che quando Fiat fa delle auto belle, che hanno un senso, che hanno un appeal come la 500, poi i mercati si adeguano, migliori e peggiori. Oggi c'è stato il botto di Premafin più 25%. Sì, soprattutto nel finale, prima fino alla notizia di questo vertice presso Unicredit, tra la stessa Unicredit e Mediobanca, che sono i principali istituti interessati dal riassetto di Premafin Fonsai, era addirittura in negativo, poi nel pomeriggio, soprattutto nel finale, è balzata, ma qui ci consiglio di dire che è soprattutto speculazione, visto che ormai l'attesa è grande per quello che sarà l'esito poi di questa lunga vicenda. Poi tra i titoli con i maggiori rialzi, forse più significativo sottolineare Zucchi, che sostanzialmente ha confermato l'interesse della tedesca Miro Radici per un'integrazione che poi per Zucchi sarebbe, Miro Radici l'acquisirebbe, quindi esatto. Ovviamente le azioni sono balzate. Unipol bene più 5,60, male Meridiana meno 20, EMS meno 8,70, First Capital meno 7,90, la Pop Milano lo diciamo meno 6,60, anche Tiscali meno 6,40%. Grazie a Ceo Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore. È inutile che continuate a scrivere in Brianza non nevica, nel nord-est non nevica, non vi paghiamo, dovete rivolgervi alla provincia di Treviso, che ha pagato 26.370 euro per affidare contratti di collaborazione a persone fisiche qualificate per verificare se nevica. Ripeto, assieme ai 400 euro per un laboratorio di spaventapasseri, comune di Gran Torto a Padova, era il nostro ex equo. Ma non male, scrive giustamente un ascoltatore, bisogna vedere di che neve si trattasse la provincia di Treviso adesso, per favore, dai. E poi scrive un'altra ascoltatrice, lei non ha idea di quanto difficile sia catturare un'anguilla, perché abbiamo scoperto che c'è stato sempre la provincia di Treviso, ha pagato 21.000 euro per contare le anguille dei fondali dei fiumi della Marca. Perché poi è difficile anche contarle, perché tu ne prendi una, la conti, poi scappa, e che ne sai che non è sempre lei, che fanno come le mucche di Fanfani. No, non so quanto difficile sia prendere un'anguilla. Delle volte ho avuto degli ospiti che sembravano anguille, ma non è il caso di Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Buonasera Fabio. Buonasera a te e agli ascoltatori. Dopo il traffico cercheremo di capire sta fondiaria, assai, ma non tanto il 1,6 miliardi di euro che la stanno affondando, ma come, cioè, che cosa succedeva lì dentro? Perché il consiglio di amministrazione si è dato 30 milioni di euro di bonus nell'anno in cui poi sono falliti. Complimenti. Se mi fate partire anche l'applauso dopo il traffico. E le consulenze, c'era di tutto. Il figlio del presidente dell'ISVAP di allora lavorava in fondiera SAI, il figlio del presidente della Consob di allora va al palazzo di Ligresti a Roma, i sindaci non si capisce dove fossero finiti, i revisori contabili pure, insomma. Fondiaria SAI, dicevamo, vedo che alcuni, sì, avete ragione, le anguille, i 26.000 euro è la provincia di Treviso, invece 26.000 euro, anzi 21.000 euro per contare le anguille, provincia di Treviso, 26.000 euro per vedere se nevica, per affidare delle persone fisiche qualificate per verificare se nevica, è la regione Friuli Venezia Giulia. Chiedo scusa, la correzione, diamo a Cesare quel che è di Cesare e torniamo a parlare di Fondiaria SAI. Dunque, Fondiaria SAI chiude il 2011 con un bilancio con 1 miliardo di euro di perdite più 1,6 miliardi di euro di debiti, principalmente verso Mediobanca. In un'azienda privata che, quando chiudi con 1 miliardo di perdite e 1,6 miliardi euro di debiti, di solito licenzi i manager. Ma Fondiaria SAI è diversa, perché nel chiudere questo bilancio da 31 milioni di euro ai componenti del consiglio di amministrazione che questo bilancio, diciamo, hanno contribuito a creare. Alla presidente Ionella Ligresti sono andati 2,5 milioni, al vicepresidente Paolo Ligresti 2,1 milioni, all'ex vicepresidente Giulio Ligresti 840.000, all'ex amministratore delegato Fausto Marchionni, che si è dimesso a inizio 2011, 10 milioni e mezzo di euro di buona uscita. Nel 2010 il gruppo aveva perso già 930 milioni di euro, e quindi un primo applauso va a Fausto Marchionni. Ma anche, ma non è da meno, il proprietario Salvatore Ligresti, che è riuscito a farsi dare dalla Fondiaria SAI, di cui è proprietario, 40 milioni di euro di consulenza tra il 2003 e il 2010. È bellissimo essere consulente della cosa di cui tu sei proprietario. Ieri dicevo, come quando Marzullo chiede, si faccia una domanda e si dia una risposta. Fai tutto tu, ti fai autoconsulenza. E poi ai consulenti legali Vittorio La Russa, fratello di Ignazio La Russa, e Geronimo La Russa, figlio di Ignazio La Russa, 670.000 euro lo scorso anno di consulenze legali. Anche per la moglie di Paolo Ligresti, Barbara De Marchio, 200.000 euro. E poi le coincidenze: Andrea Giannini, figlio del presidente ISVAP Giancarlo, lavora in Fondiaria SAI, cioè lavora in una delle società che il papà deve controllare, l'ISVAP è l'autority di vigilanza. Tra il 2005 e il 2006, tutto bene, ma magari non è così elegante. Marco Cardia, figlio del presidente di allora della Consob, Lamberto Cardia, anche qui colui che deve vigilare sull'andamento del titolo in borsa, abita in un prestigioso appartamento ai Parioli di proprietà di Ligresti. Anche qui nulla di reato, ma insomma un po' di eleganza, no? Cioè, hai il papà che controlla, che dovrebbe controllare quello che fa in borsa il proprietario di casa tua. Tra l'altro palazzo in cui abitano anche Angelino Alfano, Renato Brunetta, Chiara Geronzi, Tito Lobocchino. Vabbè, questi fanno i politici, tranne Chiara Geronzi, diciamo. Ma insomma. E poi il fondo Amber, che ha l'1,6% di Fondiaria SAI, un fondo serio, e ha messo sotto accusa le operazioni della famiglia Ligresti, portando alla luce queste pratiche societarie. Allora, Fabio Pavesi, domanda molto semplice, ma lì i collegi sindacali, i revisori dei conti, ci diamo, come funzionavano? Ma sai, hai citato tu episodi di cattivissimo gusto. Ma sai, Fondiaria, diciamo. sono episodi di cattivissimo gusto quantomeno, ma hanno anche un profilo penale, perché se l'azienda è tua puoi anche farla fallire, ma se la tua azienda ha degli azionisti di minoranza, tu non puoi lavorare per fare i tuoi affari a scapito della società, perché di fatto il meccanismo che girava, non da ieri, direi da anni, era proprio quello. I ligresti creano valore per se stessi depauperando di fatto la compagnia. E diciamo che non sono l'unico caso nel capitalismo italiano. Esatto, però c'è una frase che io trovo illuminante del magistrato che sta seguendo l'inchiesta, che ha definito il caso Ligresti Fondiaria peggio del San Raffaele. È vero. La famiglia si è inalberata, giudicando lesiva e inappropriata. Ma insomma il magistrato ha più che ragione, perché cosa vuol dire peggio del San Raffaele? Ribadisco, se tu hai un'azienda familiare e ti dai dei benefit, la roba è tua, non rispondi a nessuno, tutto regolare, puoi far affondare la tua azienda, ne rispondi tu. Ma quando tu sei quotato, tu non puoi utilizzare i flussi di capitale della società per attività tue, perché è un conflitto di interesse grande come una casa, che arricchisce te e danneggia le azionisti di minoranza. Ecco perché la procura si è mossa, perché c'è un problema di tutte le azionisti di minoranza. Vi do solo due cifre. Pensate bene che il miliardo di perdite del 2011 viene dopo al miliardo del 2010, 2 miliardi in due anni. Ebbene, sapete in quei due anni quanti soldi sono usciti dalle casse di Fonsai per andare a finanziare la famiglia Legresti? 310 milioni. 310 milioni? In due anni. Sono i flussi netti in uscita dalla Fonsai a favore delle attività familiari della famiglia Legresti. Corrispondono a poco meno dell'1% dell'attivo e al 6% di tutta la liquidità netta che generava Fonsai. È come se io mi approprio di un 6% della liquidità netta che spetta la mia società. Che non puoi, ripeto, che non essendo tu un privato, a differenza di San Raffaele, non quotato, ma sei quotato in borsa... Certo. Nonostante il sonno della ragione di Cardia e di Giovannini, per carità, magari non se ne erano accorti, però qualche controllo in più potevano anche farlo. Non voglio entrare in polemica con l'ex presidente della Consob, già l'ho fatta molte volte, e il presidente dell'ISVAP. Però 310 milioni portati fuori da Fondiaria Sai servivano, l'operazione era molto semplice, le società della famiglia Ligresti compravano terreni dalle assicurazioni della famiglia, la Milano e la Fondiaria, pagavano un prezzo ovviamente probabilmente di favore tra virgolette e si impegnavano a rivenderla a un prezzo ovviamente di favore alla stessa compagnia, lì lucravano la differenza di prezzo. Questo era un gioco sistematico che il fondo Amber per primo ha rivelato, sì. E c'è avuto un fondo anglosassone, anzi in minoranza, a scoperchiare quella che era una, un vaso di Pandora. La dimostrazione che il capitalismo non familiare, non di relazione, ma il capitalismo anglosassone qualche virtù ce l'ha, cioè quando i fondi fanno i fondi, gestiscono i soldi di pensionati, risparmiatori, poi si arrabbiano perché dicono, scusate, noi abbiamo comprato l'1,6% di Fondiaria Sai e scopriamo che la famiglia Ligresti prende sostanzialmente 300 milioni e se li distribuisce appunto col giochetto dei terreni. Una nota e poi ti lascio concludere. Il gruppo Fondiaria Sai, lo dico perché alcuni ci scrivono cosa devo fare con le polizze assicurative, attenzione, il gruppo, tutti i dati di bilancio parlano di un gruppo sano, cioè come viene gestita la raccolta premi e quant'altro, è un gruppo sano. Fabio Pavesi, il problema è che non era sana la gestione degli azionisti e del CDA. Guarda, Fondiaria Sai, voglio rassicurare i detentori di polizze, l'attività assicurativa di Fonsai ha sofferto come tutte le assicurazioni dal 2009 in poi, ma tutto sommato è un'attività sana. Il guasto è stato provocato nella parte finanziaria della società. Pensate che su quei 2 miliardi di perdite le svalutazioni dei titoli e degli immobili hanno pesato per quasi 1,9 miliardi. Cioè le perdite vengono tutte dalla gestione finanziaria del gruppo. In parallelo con San Raffaele c'è tutto. Il San Raffaele è una struttura sana, di eccellenza, nell'ospedale, tutto il buco da 1 miliardo arriva grazie a Don Verzè, esaltato come Ligresti, da una certa area politica, non voglio far polemica nel finale. Come un grande finanziere, un grande manager Don Verzè, un grande finanziere Ligresti, dicevo, tutto il buco del San Raffaele arriva dagli investimenti immobiliari, non dal non aver saputo gestire l'attività clinica. Certo. E tutto il buco dei Fondiaria Sai arriva anche qui dalla partita di giro immobiliare per fare arrivare poi i soldi alla famiglia Ligresti. Questo sostiene il PM. Certo. Ecco perché ne parliamo adesso, dico un ascoltatore, perché finché il PM non apre un'inchiesta non possiamo fare nulla. Infatti dobbiamo aspettare il lavoro dei PM, però è tutto focalizzato su questo tema e dovrà dimostrare. Le perdite arrivano da questi investimenti, non da una cattiva gestione del mondo assicurativo. Grazie a Fabio Pavesi per averci raccontato questa cosa. Che dire, passate una bella serata nonostante diciamo i temi. Noi andremo avanti con l'attività non di denuncia ma di scoperchiare alcuni vasi, devono pagare tutti, pensionati, commercianti, giovani, e allora pagassero anche gli altri. Da Sebastiano Berisoni, l'augurio di buona serata, dicevo, ci sentiamo domani dalle 17 in poi.